Compagne, un ciao a tutte le compagne e compagni che stanno seguendo Radio Sile. È chiaro che la giornata di oggi è un po' molto triste, perché diciamo il rapporto di 2 giorni fa a Porto di Salerno è morto un giovane operaio di 34 anni. Questa cosa ha mandato la nostra città in una situazione veramente di lutto, di dolore, ma specialmente anche per i compagni che conoscono il papà, a cui va il nostro abbraccio e che non mancherà per noi magari alla settimana dalla morte a recarci davanti al porto e a posizionare dei fiori, a mettere uno striscione per ricordare che fino ad ora, dal 1º gennaio, sono morti più di 302 operai, ma la maggior parte giovani operai. Il dibattito di questa sera verterà su delle riflessioni sul 150º anniversario della Comune di Parigi con il compagno Alfonso Natella. Facciamo una breve storia del compagno. Allora, nel 1978 ha pubblicato Come pesci nell'acqua inquinata, nell'82 Lo spirito del bosco, 2005 Il passato e il presente, nel 2014 I libri capaccesi, nel 2021 Rammentare e rammendare. Nel 2021, appunto ora, ha pubblicato riflessioni e appunti sul 150º anniversario della Comune di Parigi. Volevo dire, prima di passare la parola ad Alfonso, alcune cosette, insomma. Con questa iniziativa continuiamo l'opera di riflessione, di approfondimenti su alcune tematiche. Noi sabato scorso abbiamo fatto, diciamo, una riflessione sul lavoro di un compagno, sul concetto dei tempi umani. Rivoluzionario, sia esso marxista, libertario, e segnò, diciamo, un punto della storia molto importante. Allora, infatti, dal 18 marzo al 28 maggio del 1871, ci furono 72 giorni che stimolarono, incitarono a livello internazionale lo scontro di classe e i processi rivoluzionari all'alba, diciamo, dall'inizio della globalizzazione del capitalismo. Noi potremmo sintetizzare. Diciamo, ieri c'è stata un'altra iniziativa, un'altra presentazione, un'altra associazione presente nella zona orientale della città. Questa Sullo stesso volta, tema. ma sullo stesso tema, questa volta lo facciamo al centro sociale IANAS in asilo politico, ex asilo politico, e poi sarà lo stesso compagno a spiegare del perché le motivazioni, diciamo, di queste iniziative. Noi potremmo dire che, diciamo, in sintesi, che la Comune di Parigi rappresentò, ecco, una prima forma di autogestione, poi magari nel dibattito vedremo un po', una prima forma di autogestione che poi, come devo dire, dalla quale poi, ecco, poi nei corsi storici poi abbiamo avuto il Biennio Rosso in Italia e poi abbiamo avuto diciamo, un altro esperimento nella Spagna del 36 a Barcellona con la CNB. Poi ci sono stati nel tempo, ecco, pure abbiamo la storia del Nicaragua. Subito dopo la liberazione del popolo nicaragüense, e diciamo, e poi perché questi esempi? Perché le vicende che caratterizzano tutta quella fase, insomma, anche che è succeduta anche alla prima internazionale, sono tutta una serie di tematiche che, diciamo, l'intero movimento comunista, marxista, libertario, anarchico, alcune vicende, diciamo, sono lì. Proposte. Ecco, E poi dobbiamo ringraziare questi due compagni, sia Davide che Alfonso, perché stanno stimolandoci a riprendere una prassi che significa studiare, approfondire, ma nello stesso tempo ecco, riprendere delle tematiche. Prima il concetto della comune era il Vate, prima ne parlavamo prima della trasmissione, era come devo dire, il pane su cui un'adolescenza, una fase adolescenziale di una di un'area, ecco, noi ci siamo nutriti con la comune, sia dal punto di vista come non solo come scenario storico, ma anche come approfondimento di alcune tematiche che poi diciamo l'averlo abbandonato, l'averlo magari ridotto a forma individuale di approfondimento e non più collettive come erano una volta, ha fatto sì di non porre tutta una serie di dinamiche e di problemi che diciamo le stiamo affrontando ora, anche perché noi siamo alla fase, all'origine di una fase globale molto ma molto delicata e molto ma molto pericolosa. Studiare, riprendere a studiare, rileggere quei periodi, quelle fasi storiche sono molto importanti per comprendere che i corsi e ricorsi storici sono sempre quelli. E approfondire e studiare quelle fasi storiche diventano fondamentali. Il bisogno di approfondire, il bisogno di studiare sta uscendo man mano, anche in questa fase di enorme incertezza, specie dopo la pandemia, sta uscendo fuori come la necessità per capire come aggredire il presente, come far sì che le nuove generazioni politiche possano riproporre o meglio mettere in atto fronte di opposizione politico, sociale e culturale. Vabbè, ora passiamo la parola ad Alfonso, ricordo ai compagni che sarà questa trasmissione prettamente dedicata alla Comune di Parigi. Va bene, grazie per la presentazione. Io ho letto una parte di questa cosa scritta, io chiamo libro perché mi piace chiamarlo libro, però non avrei altro modo per chiamarlo, sarebbe più complicato chiamarlo in un altro modo, quindi... Allora, ieri ho letto una parte, oggi ne leggo un'altra, in cui ci sta pure il programma, una parte del programma che dei comunalisti, no? E poi ci sta pure l'aggancio con la società di allora, dell'imperialismo di allora, parlo un po' di che succedeva in Cina, che succedeva in Egitto, mi pare. Insomma, e quindi è importante... capire la fase globale del capitalismo di allora, che negli anni 70 noi chiamavamo classicamente imperialismo, no? Ma non so se è giusta la parola, usiamo la parola globalizzazione. Pure una sintesi di cosa hanno fatto i comunalisti. Allora, ho sempre mal sopportato quel modo di dire greci della storia non si fa così e coi ma. Certamente la storia è un fatto composto di guerre, di leggi, di cimiteri, di monumenti, di malattie, cambiamenti di strutture urbane, di produzione e di metodi di produzione, di avanzamenti tecnologici, a volte cambiamenti di lingua, come è capitato agli italiani di Istria, ai greci di Smirne in Turchia e tanta gente che vive ai confini come gli austriaci in Alto Adige e così via. Ma lo studio è una riflessione sulla storia, premesso come lo studio è la riflessione sulla storia, premesso che come altri studi ha la sua metodologia scientifica. Certamente non è studio teologico che richiede adesione di principi morali, ma un sentimento della storia, che non è lo spirito del mondo incarnato dagli stati, ma è l'espressione della volontà degli uomini e delle classi sociali in lotta per il potere. Questa mia scrittura vuole essere un ragionamento che si annoda a un lungo filo rosso in un dibattito che corre nelle file della militanza socialista da 150 anni. Quindi in questa presente scrittura, in questi miei fogli di lotta, devo esprimermi fugando dubbi, avanzando ipotesi e confronti sui fatti e sui giudizi politici di quel lontano evento. La prima cosa di cui si è sempre riflettuto e scritto con ossessiva malevolenza settaria sono le ragioni e di perché l'Associazione dell'Internazionale dei Lavoratori, con sede a Londra, che aveva come segretario Carlo Marx, si sciolse ad un anno da tale gloriosa e tragica evento. Ciò precisamente avvenne durante il suo primo congresso internazionale, che si tenne all'AIA dal 2 al 7 settembre 1872. Che però risultò l'ultimo della prima internazionale, perché coincise con l'uscita dall'organizzazione dei seguaci di Mikhail Bakunin, molto polemico con Marx sulla linea di condotta tenuta dall'internazionale, che a suo dire compromise negativamente gli esiti della lotta per il trionfo della Comune. Secondo la letteratura anarchica, la Comune disponeva di una forza ragguardevole, una guardia nazionale di 60.000 uomini, ciò anche secondo l'Issacharai, che come già ho detto fu combattente comunalista a Parigi e frequentatore della famiglia Marx a Londra. Secondo il generale Varsigliese, Appert, che lo scrisse nei suoi rapporti durante le operazioni contro la Comune, i combattenti della Guardia Nazionale erano 200.000, chiaramente un numero falsato in eccesso per sostenere la sua figura di militare piuttosto che quello di macellaio che uccise donne e bambini e prigionieri inermi. Non arresosi per codardia, ma perché privi di munizioni, senza cibo e senza acqua. Comunque Parigi era difesa da ben 6 fortezze e da oltre un centinaio di cannoni sull'altura di Montmartre, fusi dagli operai e costruite da confondi in una colletta popolare di cittadini parigini. Se a questo si aggiunge una lunga striscia di zona neutra attraverso la quale potevano entrare i fornimenti a Parigi e della disponibilità dell'immenso tesoro della Banca di Francia con 3 miliardi di franchi in mano alla Comune, che però essi non usarono, ma per i fondi delle spese amministrative chiesero un prestito alla banca dei Rothschild. E considerando inoltre il grande entusiasmo dei cittadini di Parigi di battersi per la Francia senza Napoleone III, catturato a Sedan dai prussiani, col suo stato maggiore e con 100.000 uomini del suo esercito, tengono conto della entusiasmante novità storica, quindi da ciò l'incredulità, lo sconforto di molti membri dell'Internazionale che non riuscivano a capire ed attribuire in modo unanime le ragioni della sconfitta che veniva attribuita dai bakuniniani a Carlo Masi in quanto segretario dell'Internazionale, il quale dopo la sconfitta dell'esercito francese a Sedan il 2 settembre 1870, dopo che le truppe prussiane furono alle porte di Parigi e che quindi il popolo parigino si mosse unanime a proclamare la Repubblica il 4 settembre, in tale frangente Marx aveva inviato un indirizzo dell'Internazionale agli operai francesi, invitandoli alla concordia nazionale. Parole di Marx. La classe operaia francese si muove dunque in una circostanza veramente difficile. Ogni tentativo di battere il governo nella crisi presente, mentre il nemico batte alle porte di Parigi, sarebbe una disperata follia. Gli operai francesi devono compiere il loro dovere di cittadini, ma nello stesso tempo non si devono far sviare dalle memorie nazionali del 1792, come i contadini francesi si lasciarono ingannare dai souvenirs nazionali del primo impero. Essi non devono ricapitolare il passato, ma costruire il futuro. Migliorino con calma e risolutamente tutte le possibilità offerte dalla libertà repubblicana per migliorare la loro organizzazione di classe. Ciò darà nuove forze erculee per una rinascita della Francia e il nostro compito comune, l'emancipazione del lavoro. Dalla loro forza e saggezza dipende le sorti della Repubblica. Marx, secondo indirizzo del Consiglio Generale dell'Internazionale contro la guerra franco-prussiana, settembre 1870. Questo fu il prudente indirizzo politico dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, scritto in circostanze drammatiche. Quindi Marx ed Engels esortavano gli operai di Parigi ad astenersi da qualsiasi azione prima della fine della guerra. Così, mentre Marx cercava di prevenire ogni velleità per battere il nuovo governo Dall'altra, Pacolini e i Giacobini si adoperarono per fare l'opposto, considerando anzi che la caduta di quel governo come il loro compito più urgente. Michel Bakunin non credeva che la classe operaia avrebbe dovuto aspettare la fine della guerra per tentare la rivoluzione sociale di leve importanti di comando a causa della guerra persa. Bakunin, diversamente da Marx, riteneva che con la fine della guerra ci sarebbe stato un rafforzamento dell'apparato borghese di comando con la ricostruzione tradizionale dell'esercito al servizio delle sue necessità di dominio. Cioè, qui aveva ragione Bakunin, e quindi poté spezzare ogni tentativo insurrezionale operaio, così come era già avvenuto nel 1848 con la repressione dei moti operai affidati al generale Savignac, e dunque subito dopo la caduta dell'impero francese, con la caduta nel confronto dei prussiani a Sedan, Bakunin e i suoi seguaci entrarono in azione a Lione il 28 settembre 1870, prima era comune, occupando l'Hotel de Ville, sarebbe un municipio. Ma l'insurrezione fallì a Lione, cioè praticamente tentò l'insurrezione, ma l'insurrezione fallì perché mal preparata, e quindi a Parigi i suoi seguaci, come l'operaio internazionalista Verdano, insieme ai plutoniani, agirono continuando la lotta in accordo con gli internazionalisti e il Partito della Montagna. L'unità di intenti dei dirigenti comunalisti permise di assolvere sia i compiti amministrativi che a quelli della difesa. Poiché se avesse vinto la guerra il dispotismo prussiano, le sorti della rivoluzione in Europa sarebbero state messe in serio pericolo. Quindi, secondo lo splendido, tra virgolette, pensiero anarchico, la sola possibilità di salvezza sarebbe stata quella di una guerra civile europea contro la nobiltà, la Chiesa e la borghesia, partita in accelerazione della rivoluzione operaia in Francia. Parole di Bakunin: annientato come Stato, la Francia non poteva più che rinascere a una potenza nuova, a una nuova grandezza, non più politica questa volta, ma sociale, che mediante la rivoluzione sociale. Bakunin. Marx e Engels non si limitarono a esortare alla calma e alla collaborazione. I compagni internazionalisti di Francia non è soltanto a incitare alla solidarietà gli operai inglesi a favore della Repubblica di Francia, ma anche a fare passo ufficiale dell'internazionale a favore dell'intervento militare inglese sul suolo francese contro i prussiani. Queste manovre dell'internazionale, rafforzando le posizioni del governo francese nei confronti dei prussiani, facilitarono il rapporto fra il governo marsigliese capeggiato da Thiers e il cancelliere prussiano Bismarck, che ritenne conveniente rilasciare 100.000 prigionieri francesi anche con armi e bagagli per permettere al governo democratico di Thiers di attaccare la Comune di Parigi. Tale accordo scatenarono la classe operaia parigina, mal disposta a piegarsi al re di Prussia e pagare il costo di una guerra voluta dai banchieri e da Napoleone III. E dopo il tentativo di Thiers di disarmare le difese di Parigi, occupando un forte sulla Seine, seguito al tentativo di smontare i cannoni sulle alture di Montmartre, la ribellione dei parigini fu unanime. Parigi si sostituì alla Francia con la proclamazione della Comune il 18 marzo 1871. Quindi Marx, sopraffatto dagli eventi, si dovette limitare a indire una riunione il 21 marzo del Consiglio Generale dell'Internazionale per mobilitare gli operai a favore della Comune di Parigi, ma egli, benché sorpreso dagli eventi che lui 2 mesi prima aveva giudicato prematuri, si unì con nuovo fervore ai nuovi fatti e condizioni politiche, e una lettera a Ludwig Kugelmann il 12 aprile 1871 così esprimeva: quale utilità, quale iniziativa storica, quale capacità di sacrificio di questi parigini, dopo 2 mesi di fame e di rovine causate dal tradimento interno, ancor più dal nemico esterno, insorgono sotto le baionette prussiane come se non ci fosse mai stata una guerra tra la Francia e la Germania, come se il nemico non fosse tuttora alle porte di Parigi. La storia non ha nessun simile esempio di simile grandezza. Quindi Marx era entusiasta della Comune di Parigi, malgrado era detestata la ferma, tutto qua, la controversia. Allora, la Comune, secondo il pensiero degli anarchici e dei socialisti, non fu soltanto un simbolo di dignità e onore in cui perse la vita dei credenti in un ideale politico, ma anche un significativo risultato di buona ed efficace amministrazione pubblica da parte degli operai parigini. La Comune aveva abolito il lavoro notturno dei fornai, abolito il lavoro minorile, resa obbligatoria la scuola pubblica libertaria per i minori e abolito l'istituzione degli istituti scolastici religiosi. La Comune aveva abolito soprattutto altri onorari dei dirigenti pubblici, dei pubblici uffici, dove diversi operai seppero ricoprire con zelo e con efficacia alti incarichi amministrativi. Il cesellatore Tietz divenne il direttore delle poste, trovò un servizio quasi inesistente, disorganizzato, con marche da bolle rubate. Egli riunì tutti i dipendenti rimasti al proprio posto e li convinse a passare alla comune, forse con le armi in mano. In breve, la levata delle lettere e la consegna fu ristabilita in tutta la città. Si arrivò a far passare la corrispondenza per la provincia a mezzo di agenti abili e coraggiosi. Lo stesso avvenne alla zecca, dove un operaio statore in bronzo, Pamelli Pan, venne incaricato di continuare la coniazione con l'argenteria requisita alle case dei varsichesi. L'assistenza pubblica venne curata da Taillon, che ridasse la pronuncia: sono cazzi vostri, non so come è buona. Taillon, che redasse un minuzioso rapporto sui risultati ottenuti e sulle modificazioni dell'assistenza, ma pure l'allargamento alla stessa. Il delegato alle finanze, Yurd, riuscì a presentare un bilancio talmente preciso, oltre che attivo, tale da risultare un nuovo sistema di organizzazione per i bilanci pubblici e delle forme con cui si redige un bilancio. Lo stato delle finanze della comune era giudicato florido, ma questo lavoro era stato aiutato da Verlan, un operaio internazionalista che fu uno degli ultimi combattenti della comune catturato, torturato e fucilato da varsichesi. Se si pensa che tutto ciò fu fatto in 72 giorni, si può senz'altro ben avere chiaro la produttività della comune e al di là dei letterari, dei teorici, la volontà politica, la rivalsa degli operai furono atteggiamenti indispensabili per la qualità della legislazione e della efficacia dell'azione politica. Nell'entrare in rapporto con la memoria del primo governo operaio della storia, durò 72 giorni, stroncata dalla forza militare del governo capitolato di Versailles, agli ordini del governo prussiano, in quanto occupanti militari, dobbiamo però considerare che tale forma di governo, per sua natura, era considerato ostile rispetto ad un'operante potenza economica e tecnica della borghesia. E due anni prima, nel 1869, aveva già inaugurato il canale di Suez, mentre in Asia, in America del Sud, in Siberia e nei Balcani, gli ingegneri francesi, tedeschi e inglesi progettavano e costruivano ferrovie e nelle metropoli d'origine progettavano navi corazzate armate di enormi cannoni che, navigando sui mari del mondo, occupando le coste dell'Africa, delle isole dell'Asia, solcando i fiumi della Cina, dell'India e della penisola indocinese. Per tali fatti e condizioni del dominio mondiale del capitalismo, la Comune parigina del 1871 rappresentava una terribile minaccia e minacciosa novità. Un governo antagonista di operai armati in pieno secolo del trionfo del capitalismo e dello sviluppo del colonialismo. Bisogna anche ricordare che la prima metà dell'Ottocento, con il congresso di Vienna, in cui all'ombra del trono e dell'altare la borghesia imprenditoriale o mercantile, che praticava e predicava il libero mercato, un teorema economico propagandato anche dalle rivoluzioni democratiche nazionali del 1848, da Enzheim in Germania e da Mazzini in Italia, nonché da Pisacane nel suo testamento del 1858, prima della sua sfortunata spedizione a Sardegna. Quindi, alla seconda metà dell'Ottocento, le varie borghesie nazionali, giunte al potere nei liberi parlamenti, cominciarono ad apprezzare il regime di produzione monopolistico, permettendo e favorendo attraverso facilitazioni finanziarie e calmieri fiscali la unione finanziaria di industrie e di cartelli di trust industriali. La Comune di Parigi sorse nel primo sviluppo della globalizzazione capitalista, dove erano sorti in ogni paese governato dai democratici regimi economici monopolistici, e quindi il protezionismo doganale. Tutto ciò iniziò nel 1869 con l'inaugurazione del canale di Suez, che nel suo primo anno di esercizio, il 1870, servì per il passaggio 486 navi e 650.000 tonnellate di merci, raggiungendo nel 1882, un anno dopo, il passaggio di 3.000 navi annue e 7 miliardi di tonnellate di merci. Quello fu l'epoca in cui l'Egitto fu invaso dall'Inghilterra ed iniziavano i problemi in Medio Oriente, che durano ancora oggi. La politicizzazione nazionalista degli ufficiali dell'esercito e la diffusione nel popolo dell'islamismo militante dei Fratelli Musulmani, a cui giustificare le cui le cui giustificate intemperanze contro gli stranieri europei che facevano i padroni della vita sociale in Egitto, non pagando tasse, non sottoposti alla giurisdizione e ai giudizi dei tribunali egiziani. Questo non solo in Egitto, ma anche in Cina, così. Perciò ne viene rivolto. Magari un marinaio imbriaco che violentava una guagliona, accedeva a cocco, a barbone, e ci cercava l'elemosina e succedeva una mazzata contro... Cioè in Cina c'è pure i boxer che si ribellavano, una banda di autonomi dell'epoca che sembrava fu karate di sinistra. E poi sono andati via dei fascisti come tutti i scartri nostri. Quindi i fratelli musulmani, le cui giustificate intemperanze con gli stranieri europei facevano i padroni nella vita sociale dell'Egitto, non pagando tasse, non sottoposti alla giurisdizione e ai giudici del tribunale egiziano, si rivolse con tali violente si risolse con tali violente aggressioni verso gli europei, soprattutto inglesi, costringendo l'intervento di una squadra navale dell'ambiato inglese che bombardò il porto di Alessandria e invase il Cairo. Da lì inizia la storia ancora attuale del rapporto fra europei e islamici. Quindi abbiamo avuto che nella prima, e se ancora valida questa, deve essere valida pure la rivoluzione, capite come la pensi? Non madonna H e non madonna alla, se no sono cara comunque. Quindi abbiamo avuto che nella prima metà dell'Ottocento la borghesia voleva il libero mercato, che era la vecchia idea del capitalismo mercantilista degli spagnoli, francesi, inglesi, olandesi, portoghesi, quando importavano e esportavano dall'Africa e dalle Americhe, e trovavano ingiusto pagare gabella ai governatori delle colonie e ai propri governanti metropolitani. E nella seconda metà dell'Ottocento e con la formazione dello Stato borghese e capitalistico che incrementava produzione e commercio ed apparati militari, finì col pensare ed attuare la centralizzazione dell'industria con apparati produttivi sempre più potenti per vincere la concorrenza di altri stati. Tale situazione, che prese il nome di nazionalizzazione economica, divenne chiara nel Novecento, dove per problemi di certezza e controlli tariffari iniziarono le nazionalizzazioni di miniere di carbone, di ferro, e più tardi, con la prima guerra mondiale, anche le ferrovie, le centrali elettriche e le municipalizzate, le condotte d'acqua e del gas. Questo perché il trasporto di materiale bellico e quello di milioni di soldati rendeva più economico per lo Stato gestire direttamente le ferrovie. Cioè, nel momento in cui l'imperialismo aveva bisogno dei militari, cioè molti militari, allora ci sono i fabbrici per fare i galletti, i fabbrici per fare scatole di carne, scatole di tonno, tutto si scatolame, viene gli scatole di basilico, di fasugo, no? E divisi per fabbriche di vestiti per ottenere l'esercito, gli scarpe, fabbriche di scarpe. E perciò pensavano, dai tempi di Giulio Cesare, di Alessandro Magno, fino a 15-18, fino alla seconda guerra mondiale, che la guerra era un affare, perché ci voleva tutta una scarpe, maglie, mutante, sapone, dentrifici, un casino di produzione si fa. Mani nazisti. Quindi. Ma non voglio anticipare quello che è già scritto, pensate a attuare la centralità dell'industria con apparati produttivi sempre più potenti per vincere la concorrenza di altri stati. Tale situazione che prese il nome di nazionalizzazione economica divenne chiara nel Novecento, dove per problemi di certezza e controlli tariffari iniziarono le nazionalizzazioni di miniere, di carbone e di ferro. E più tardi, con la prima guerra mondiale, anche le ferrovie, le centrali elettriche, le municipalizzazioni della condotta di acqua e del gas. Questo perché il trasporto di materiale bellico e quello di milioni di soldati rendevano più economico per lo Stato gestire direttamente le ferrovie, come pure il trasporto pubblico nelle grosse città industriali, dove i passeggeri erano soprattutto dei lavoratori dell'industria. Quindi si pensò conveniente che tale attività imprenditoriale fosse gestita da società municipalizzate per controllare il costo delle tariffe per tali prevalenti tipi di viaggiatori. Così anche gli ospedali, che avevano dei degenti prevalentemente operai, convenne che essi fossero pubblici per evitare contagi epidemici e spettacoli di penosa miseria nelle città della borghesia. Nelle guerre attuali si usano pochi soldati e meno carri armati, poiché la guerra si fa con l'elettronico, con missili armati su droni e bombardieri supersonici, mentre I due grandi conflitti mondiali, 1914-1918 e quello del 1943-1945, con l'uso di milioni di soldati, quindi milioni di scarpe, siti e cibo miscatolato, comportava la nazionalizzazione dei mezzi di produzione, fabbriche, conserve alimentari, altoforni, fabbriche metalmeccaniche, cantieri navali, e con la nascita dei regimi socialisti, quello sovietico del 1917 e quello cinese del 1949, si incrementò ulteriormente questo processo di centralizzazione e nazionalizzazione delle industrie e delle risorse naturali. Una parentesi, questo dimostra che non è stata l'Unione Sovietica o la Cina a centralizzare l'economia, è stata innanzitutto i borghesi, i paesi invece è stata la Francia, è stata l'Inghilterra innanzitutto a ruota le questo processo di centralizzazione e nazionalizzazione delle industrie e delle risorse naturali, tale sistema di centralizzazione statale continuò nei paesi ex colonie europee, che col processo delle decolonizzazioni che durarono fino agli inizi degli anni 80 del Novecento, dove cominciò a svilupparsi il liberismo economico con Reagan e la Thatcher in Italia. Molti intellettuali asiatici ed africani nei paesi colonizzati dall'imperialismo inglese, francese, tedesco, quando venivano a contatto con la cultura liberale e con la filosofia fisiocratica, tentarono di cambiare la subordinazione economica e militare della propria patria, abbracciando la fede nel liberismo politico ed economico, ed alcuni anche la religione dell'imperialismo occidentale, soprattutto il protestantesimo olandese e britannico, tedesco ed USA. Ciò avvenne soprattutto in Cina, perché la popolazione non soffrì, poiché là la popolazione non soffrivano la voliovrice là, e insomma la mia città è incasinata, è ignorantistica, perché la popolazione non soffrivano di nessun dogma religioso, perché le popolazioni restrittiva di precetti culturali, comportamentali e ordinativi della vita pubblica e familiare. Uno di tali tipi di intellettuali fu Sun Yat-sen, uno dei moderni padri della patria cinese, rispettato nell'onore anche dai nazionalisti italiani. Egli aveva studiato in una missione protestante diventando medico, ma non potendo stare con milioni di operai cinesi che lavoravano in fabbriche giapponesi ed inglesi, ma erano rispettati dai nazionalisti perché nei loro scioperi dovevano confrontarsi sempre con i soldati delle legazioni straniere giapponese e inglese, per cui morivano a decine di migliaia in ogni sciopero. Con tali tipi di comunisti nazionalisti di tutto gli Yat-sen crearono il Kuomintang e l'Accademia Militare di Vancouver. Sun Yat-sen morì a due anni dalla costruzione del partito del Kuomintang. Al suo posto venne eletto Chiang Kai-shek, che in conflitto con gli agenti americani provocò la rottura con i comunisti, e quindi si sciolse anche l'Accademia Militare di Vancouver, dove insorse poi i comunisti organizzati. Volevo dire alcune cose, poi passiamo anche sul concetto del perché, no? Di ricordare la Comune di Parigi nel tempo. No, io volevo dire alcune cose che quando ho introdotto la discussione sul concetto della prima forma di autogestione che poi si ripropose nel 1936 in Spagna, in Barcellona, e sull'efficienza di questa autogestione. Leggere quello che successe a Parigi, tu hai citato alcune parti di come i servizi, nonostante l'assedio che ci stava attorno, funzionava, quindi dalle poste, le attività commerciali, le scuole e anche la sanità. La stessa cosa successe poi a Barcellona nel 1936. Io voglio ricordare pure una questione del ruolo delle donne che hanno avuto all'interno della Comune di Parigi. Ci sono alcuni esempi delle donne della Comune di Parigi, si rivolgono a Parigi con una domanda: cittadine, sopporteremo più a lungo che la miseria e l'ignoranza facciano dei nostri figli dei nemici, che padre contro figlio, fratello contro fratello vengono ad uccidersi fra loro sotto i nostri occhi per il capriccio dei nostri oppressori? Cittadine, noi vogliamo essere liberi. A questo punto, anche perché un ringraziamento pure mio da parte di questo tuo stimolo sulla Comune, ne avevamo parlato pure poco prima, la conoscenza di questa compagna, lui diceva. Là, chi ci sta ascoltando è una trasmissione radio, però ci sono anche compagni che stanno presenti, possono intervenire, ci sono pure dei giovani militanti che ci vengono da Sisole e via dicendo. Questa compagna, Louis Michel, dico alcune cose, poi diciamo ripongo nuovamente la domanda. Diciamo, lei fu portata come prigioniera in Nuova Caledonia e quindi ebbe il modo di riflettere, come anche il nostro Gramsci, come il pensare carcerario, e su quella formidabile esperienza vissuta. Cioè lei sperimentò in pochi mesi tre forme di potere differenti: la monarchia, la repubblica e lo stato proletario. E scrisse: dato che paragonavo continuamente le cose, gli avvenimenti e le persone, che addirittura gli onesti, una volta al potere, sono tanto incompetenti quanto intricconi dannosi, e vedevo l'impossibilità che la mia nava con un suo pensiero dicendo: il potere è maledetto, ecco perché io sono anarchica. Perché poi tu l'hai citata anche prima, no? Nella comune, ma già alcune avvisaglie che c'erano avvenute nell'internazionale, il conflitto e il confronto, e molto spesso lo scontro tra il pensiero anarchico e il pensiero Marx ed Engels e via dicendo. Allora, e questo è un fatto importante, ecco perché poi ecco la domanda che veniamo ad Alfonso: perché la necessità di approfondire la comune, di riprendere questa abitudine nella riflessione, della riflessione storica, perché molte di quelle contraddizioni, come accennato sinteticamente all'inizio, quelle contraddizioni le stiamo vivendo, le abbiamo vissute nell'era moderna, le stiamo vivendo tuttora, e c'è un motivo se noi diciamo attualmente in Europa con diciamo, l'assenza totale di un movimento di opposizione politico, ideologico, culturale, in una fase che si sta avviando verso degli scenari di cui noi non ne siamo a conoscenza. Allora Alfonso, la domanda che diciamo tu ponessi del perché di queste iniziative, la ripetiamo pure qua. Alfonso, perché è importante la comune di Perigia, perché è importante ricordare questa fase storica importante della nostra vita? Ora ti vado pure un altro compagno su cui mi trovo d'accordo, che mi è piaciuto ieri un suo termine, che la rivoluzione, cioè che la comune era un'orgia, era un'orgia andata a fine, ma quando dico un'orgia nel senso una festa, non una reputazione, è della febbre, non è carica, diciamo. Non nel senso va bene, ok. Allora è arrivato un altro compagno alla trasmissione. La domanda qual è? Cosa pensa di Mariupol? No, perché è importante ricordare la comune? Perché è importante consolidare? Allora, io quando parlavo dei ladri, non parlavo di chi era la comune, quelli non hanno avuto il tempo di rubare, se ne è stata scissa. Parlavo dei democratici che dopo o congresso di Vienna, il primo governo che hanno fatto dopo il congresso, hanno stato l'operaffa che regge il governo, hanno fatto scapporre, hanno venuto e si sono messi a un filo monarchico, come si chiama, Luigi Filippo, che è stato nato in 20 anni. Dopo hanno mandato in terra Luigi Filippo, e ne mi sono nato fotendi in merda che era il maggiore di Luca, come si chiama, l'imperatore, un nipote di Napoleone, Luigi Napoleone III, che era sempre in combutto con i monarchici, con gli ultras che erano cattolici di destra. Quindi alla fine c'è tra i comuni, i comunisti, i compagni parigini, e i democratici subito se ne staccavano, ma già se ne erano staccato il 48, cioè il 48 i democratici staccarono dalla rivoluzione che hanno fatto l'operaio, che già hanno fatto richiesta operaio nel 1848, perché se mettevano a porre che fu un stato sociale, lo chiamavano stato sociale, non socialismo, e si allevavano per la destra per fatto l'opera e facevano la prima strage nel 1848, e da lì viene Napoleone III, da quell'errore dei democratici. E poi è stata sempre contro Napoleone III, un leonascino attuale, c'è tutta una letteratura degli attentati contro su Napoleone III da parte dei democratici, che mentre ci stavano dei ladri fra i democratici, c'erano pure dei combattenti, no? Non è che fai tutte le erbe un fascio. Poi, perché alcuni democratici poi si hanno trovato per la comune, l'Istigarai era un giacobino, l'Istigarai si è trovato per la comune, senza se e senza ma. Ma venne pure lui dai democratici, questo qua. Era amico i garibaldini, insieme a loro infatti i cacciatori delle Alpi in Italia. E Garibaldi aveva cominciato a combattere. Lui c'era il figlio di Garibaldi, là altri 9 italiani, che avevano fatto un gruppo di liberi di fucilieri, liberi cacciatori si chiamava questo gruppo, che sparava ogni tanto, andavano a rostini i truppi, come cazzo si chiamava, i bersaglieri, ci sparavano lui e fucilato in cuore a neve, no? Quindi questo qui era pure un borghese, però era sostituto. C'è stato uno che ha fatto la rivoluzione francese, che si è fumarato, stiamo con questa dei giacobini, che ha fatto tante che ricazzate durante la comune, però quando erano arrivati i varsigliesi si è ammanato contro a mani nude, senza neanche una pistola, si è ammanato contro, avrà chiamato Ricciù, un in merda, non so in cinese come si origina in francese, e hanno sparato. Quindi si sono comportati tutti coraggiosamente, chi si non hanno avuto tempo di rubare. E i democratici che hanno visto il potere, dice, non ci mettiamo il potere. Lo leggo ad un discorso, ad un ragionamento sull'OMS in particolare, sul non lavoro, che Alfonso fece un po' di tempo fa. E qui scendo nella pratica, insomma. Se una delle gioie del mondo è la cultura, la conoscenza, cioè la capacità di apprendimento, no, dell'uomo, il godere di un quadro di Ermanno Senatore, un quadro di Leonardo, un fiore, un vaso, una performance, un verso, una sonorità, per dire, una musicalità di Rachele, di Mia, di altri, insomma, se godere di questa bellezza c'è bisogno di istruzione, no? C'è bisogno di tempo, cioè la cultura non è, è una fatica, cioè è comunque un apprendimento, è forse il lavoro più bello del mondo per questo, cioè, però è lo stesso un lavoro, ci vuol dire, quando il tempo ti viene sottratto da un lavoro come era quello del contesto dell'Ottocento, cioè, ricordiamoci che praticamente ogni cosa va contestualizzata anche nel tempo, in quel tempo, Alfonso dice una cosa, che tipo di operai richiedeva l'industria, la fabbrica? Esisteva ancora un artigianato che era una ricchezza infinita del lavoro, cioè un artigiano non era solo lo proletario, cioè un artigiano era lui che costruiva, cioè assemblava materie prime, le metteva insieme, e quel lavoro che oggi in parte non c'è più, ma è proprio tutto un concetto differente della situazione. Ma io torno alle gioie del mondo. Se una delle gioie del mondo è il sentimento, il tempo che tu dedichi all'amore, a un altro da te, giusto o no? Quando tu parli del bene essenziale di una persona, cioè il fatto di avere un cibo di un certo tipo, di avere un'istruzione uguale per tutti, ecco. Di questo momento del governo per 72 giorni, di un autogoverno capace praticamente è di avere su tutto il territorio parigino. Ma non dimentichiamo che la comune era un modello preciso di amministrazione e di governo del popolo, ce ne furono altri, cioè il modello della comune era esportabile in tutta Europa. I comunalisti volevano, come ieri ci ha spiegato molto bene Alfonso, volevano che fosse un sistema, cioè non uno Stato centrale, un modello, cioè un'idea, capito, che in tutta cioè le città federali, diventasse... cioè chiamavano i federali. Ecco dov'è la grandezza. Federale. Non è un federalismo che stanno facendo in Italia, la Lega... Di Mariuolo, che fosse allora, quello che voglio dire, no, ma io voglio tornare una volta ai beni e alle gioie di questo mondo, la distruzione di ogni aura. Noi oggi viviamo, è inutile che facciamo voli, l'autorità, il fascismo, più che nelle dichiarazioni e nelle mani tese, che sono pericolose lo stesso, delle manifestazioni di piazza, è il fascismo che viviamo quotidianamente, nei rapporti quotidiani, sentimentali, di vita sociale. Non so se riesco a spiegare. È questa autorità che si sta imponendo oggi. Ed è inutile parlare, cioè che tu pensi che ne stai fuori perché riesci ad essere uno che legge la manipolazione, ma non significa niente a leggere la manipolazione. Quando noi andremo alle elezioni, consegneremo un paese alla destra. E che io e te, capite, che c'è una manipolazione, c'è qualcosa che non cambierà la situazione, com'è che non ha cagnata con il fascismo in Italia, con Hitler in Germania. Non sempre, capito, se non cambiamo maledettamente i nostri rapporti interpersonali, questo l'avevamo capito negli anni 70, cioè se non cambia la vita, come diceva Rimbaud, proprio che si fece 250 km a piedi, dice la leggenda, per dire che era a Comune di Parigi, farne parte, vuol dire qualcosa, cioè cambiare la vita non è cambiare il mondo, è una cosa diversa. Se noi fra di noi abbiamo rapporti fascisti, faccio un esempio, vi ricordate quel film di Verdone, Un sacco bello, dove c'è la ragazza che dice a un certo punto al papà di lui, a fascio, io ho già sputato il padre mio padre, allora, così. E lui si incazza, no? Si incazza, dice ma tu mi fascio a me, ma lei in quel momento ha ragione, perché sta leggendo l'autorità fascista che del padre, del ruolo, non so se riesco a spiegare, sì. Se questo ruolo è nella nostra vita quotidiana, abbiamo voglia di ricordarci del grande coraggio di chi ha fatto la Comune di Parigi e ne è morto, capito? E sono cose che una comunità politica proletaria deve sempre mantenere viva. E quindi anche da questo punto di vista, e io eviterei pure sempre la dice, non c'è bisogno, dice no, Franz, c'erano tante componenti. E io penso che l'originalità, la festa, in queste situazioni, sta nell'intelligenza di quell'autogoverno a inventare nuove forme di rapporti sociali. E questa è la grandezza politica, quindi non è che solo libertà è stata repressa perché non capivano niente, erano capite troppo e stavano facendo quello che non ne verrà fa, forse pure se pigli i soldi alla banca francese non ne hanno fatto a te, cioè non gliel'hanno permesso, allora io la finirei qui ricordando l'inchiesta parlamentare sull'insurrezione, che dice questo: l'uguale diritto di tutti ai beni e alle gioie di questo mondo. È questo che mi ha contro ogni forma, freno morale, contro ogni forma, contro ogni freno morale, che se no è mio. Ma questo è meglio non dirlo. No, nel senso all'epoca però aveva all'epoca aveva un perché certo... qua arriviamo al fraintendimento. Hai capito? Perché chi dice che è un purk e dice che non c'è nessun freno morale, non c'è nessun freno morale. Allora, no, era l'inchiesta parlamentare, li dovevano colpire nella memoria. Questa qui è la cosa che infanga e li colpisce. invece era gente che stava lavorando per l'unica cosa giusta, che è praticamente quelle che negli anni 70 avete provato in tanti di voi a far capire anche a un partito come quello comunista. E non capisco perché oggi tutti ne fanno l'altarino di quel partito. Ne parlavamo. Aspetta, sai che negli anni, per dire questo io, vuol dire che praticamente l'ho detto pubblicamente, l'ho fatto in 10.000, prima Alfonso parlava di guerre, che la guerra, cioè secondo una certa interpretazione, la guerra è un fatto naturale, ma perché non è presente in epoche moderne che la guerra giusti, non ho capito qui dentro che facevamo noi in quel periodo, Alfonso che è venuto in coppia di Ponda a fine manifestazione ed io per scongiurare quella cosa facevo ogni settimana un seminario qui che si chiamava La prima vittima di una guerra alla verità. Ora praticamente, ma senza stare troppo a girarci attorno, il problema di fondo resta che è una fatica per te, beni e gioie per tutti in uguale maniera, e questo oggi non è così, perché noi viviamo una società che ha delegato ai politici in modo gerarchico tutta una serie di competenze e di situazioni, e soprattutto vive consciamente o inconsciamente, non lo so, ma è di questo dobbiamo avere terrore. Perciò ieri mi sono permesso di dire abbiamo rapporti di merda tra noi, permettetemi che praticamente si rapporti cambiano. Quindi in questo senso qui, in cerca di gioia, di amore, e non è un pace per uscire, però prima di venire qua da voi io c'ho diabete, quindi non vado, se lo trovo impressionante, se lo trovo ve lo leggo, ma non sono convinto. Prima che lo trovo voglio dire una cosa, io prima, come ancora non è venuto, ho ricordato come i corsi storici, la Spagna 36, il Nicaragua, sono così anche gli anni che abbiamo vissuto agli inizi degli anni 70, ciò che la Comune di C ha determinato. Allora, in Francia, De Gaulle, allora, noi sappiamo che durante quella la Comune, allora, le barricate furono distrutte e furono allargate le strade. Allora, De Gaulle, subito dopo, di maggio 60, abbatté tutti gli alberi che portavano alla Sorbona. No, no, nel senso voglio dire che vogliono. No, certamente, per avere gli spazi liberi. Vogliono. Allora, perché questo è il problema. Allora io la questione. Henri Lefebvre parla proprio della. Questo che è stato un marxista poco conosciuto in Italia, poco frequentato in Italia, ma fondamentale perché uno che ha studiato, perché uno che ha praticamente studiato l'alienazione in una società di produzioni di merci, insomma, quindi il consumo lo ha visto dal punto di vista dell'alienazione, quindi ha sviluppato dei concetti che in Matrix sono presenti soprattutto nel primo capitolo, del primo libro del Capitale. Ma senza farla troppo lunga al riguardo, il problema dello spazio urbano è proprio quello della riorganizzazione di uno spazio urbano che tende a espellere il popolo dal centro della città a Parigi, buttandoli in periferia, e quello che accade con appunto la Comune di Parigi è questa riappropriazione del popolo del centro di Parigi, di un centro che si sta trasformando, stanno diventando grandi boulevard, e riesce a resistere in quei punti che non sono stati ancora toccati dal nuovo urbanismo, che avrebbe dopo buttato giù tutte le vecchie stradine di Parigi per farsi grandi boulevard che servivano a metà cavalleria, capiti, a non far creare barricate, ci sarebbe voluto molto di più logisticamente che fatti i fascelli immobili in vicoli stretti che comunque tendono in scacco l'esercito e tutte quante le forze. Quello che dicevo ieri è che la comunicazione, un'arte che nasceva allora, Walter Benjamin ne parla nella sua breve storia della fotografia, e anche in molti, ci sono molti frammenti che compongono dei capitoli del suo libro mai scritto, in realtà sono solo appunti, i passaggi parigini di Walter Benjamin. Lui insiste molto sulla nascente arte della fotografia e dice che i comunali, che si fecero fotografare in tenuta di sommossa, diciamo, quindi in tenuta di vittoriosi, furono poi passati tutti per le armi. Quando è che ci fu l'abbattimento di quell'esperienza rivoluzionaria, furono riconosciuti, quindi quel fuoco, arrivarono i prefetti, i poliziotti, li riconobbero, quindi quell'arte, questa nuova comunicazione, questa nuova forma rivoluzionaria anche di comunicazione dell'immagine servì e fece capire ai rivoluzionari futuri, quelli che sarebbero venuti dopo, che non servono a fare fotografa mai in situazioni di quel tipo lì. Ricordate che i veri, che negli anni 70 si faceva fotografare, era quasi a tua insaputa. Solamente i cretini oggi possono mettere le foto e si fanno vedere belle che stanno dalle manifestazioni. I rivoluzionari quelli non li troverai mai in una foto. Posso dire una cosa, Alfonso, visto che diciamo siamo Michele, quanto abbiamo sparato? Alle 9, va bene. Vedete, si tratta appunto di una trasmissione radio. Allora, la parola ad Alfonso per finire, diciamo, questo, lo so che non si finisce mai, però abbiamo dei tempi, diciamo, da rispettare come radio. Vabbè, noi credo che ci sarà in futuro prossimo delle riunioni formali o informali che siano, per vedere innanzitutto dobbiamo rintracciare la musica di quell'epoca ottocentesca, no? Cioè le ideologie dei compagni di allora, della sinistra di allora, si vede dalle canzoni, no? Come le ideologie nostre si vedono dalle canzoni, no? L'ideologia raga amore se in canzoni, insomma, l'ideologia popolare, insomma, dell'epoca, ama avere in canzoni. Io penso che Tommaso Enrico, degli spartiti ottocenteschi, no, della musica socialista e anarchica dell'Ottocento, dobbiamo partire da quella musica là e creare dei musicisti che sanno che la musica là è la prima base, perché è la base della costruzione della memoria. La costruzione della memoria è un'opera d'arte, non è una cosa quantitativa, è una cosa qualitativa, no? Noi potremmo accucciare tutti i libri che avremmo, se non si legge nessuno, la memoria non esiste. Allora l'unica memoria che potremmo fare sicura è cantare quelle canzoni anarchico-socialiste dell'Ottocento, rimetterle in auge, come la canzone napoletana, la sceneggiata che ci stanno ancora, come fosse la canzone della Mafola, no? Però sono canzoni corte. Tutti i paesi hanno le canzoni della Mafola, solo noi un etnico, perché siamo i più stupidi. Ornella Vanoni, ma lascia stare Ornella Vanoni, c'erano pure nel napoletano, le hanno tolte di mezzi, i giudici pure. E ne ha arrestato un camorrista, come si chiama, Peppino Mauro, che per me poteva campare 100 anni, era un pubblico che ci piace. Allora noi siamo un pubblico che ci piace le canzoni socialiste dell'Ottocento. Se partiamo da che facciamo la prima cosa buona, poi magari se troviamo un gruppo teatrale che si fa, o teatro e break, perché c'è stata un'opera la settimana di sangue, se esistono ancora le opere di Bertolt Brecht, io ce l'avevo e lo tengo solo un libretto di canzoni. Su questa base qua si costruisce tutto il resto, perché già questi libri che ho io, già voglio dire, si fanno i fotocopi, si ripubblicano, è un'altra operazione ancora. E poi il resto è questione di riunione di studi e di formalizzare queste 72 giorni del prossimo anno, come andranno a finire, cos'è l'imperialismo, come si basa sulla comunicazione, si basa su questo. Vediamo tutto il resto, però il primo passo necessario è prendere le canzoni dell'Ottocento, farne un gruppo musicale che usano un pianoforte, usano la tromba, quello che sia, e fare queste canzoni dal vivo come fatto teatrale, poi arrivare al teatro di Brecht sulla sedia e cominciamo a muovere così per arrivare il prossimo anno a delle operazioni di questo tipo. Poi è chiaro, ci sarà sempre la pubblicazione di questi libri, rifarli un'altra volta, riproporli al pubblico, cioè dovrei sì si possono ripubblicare, e poi scrivere delle cose sull'imperialismo di adesso, sulle lotte di adesso, confrontarli con quelli della comune. Questo non ne sono certo come avverrà, se da fare un circolo ad hoc per fare questo non lo so. Sa perché non lo so? Perché se facciamo un circolo, chiamiamo la comune, dopo tre giorni, troppo che mi tendono, dopo tre giorni ci stanno i cinque che non sono d'accordo e se ne vanno. Quindi noi i famosi cinque che se ne vanno non li avremo più, perché non se ne va nessuno, nel senso che se non volessimo pure noi, troppo che mi chiesto cosa mi dice, come al solito. Quindi non formalizziamo niente, se non quando siamo pronti per fare una cosa gli diamo il nome. Tu quando vira l'animale dici come si chiama questo animale? Cioè quando noi siamo pronti per fare una cosa il prossimo anno, prima che come ci hanno chiamato e fa anche, capito? Ok. Non ci come ci hanno chiamato, non ci chiamiamo niente. Comunque io farei una federazione di associazioni per gestire questa cosa. Quelli che fa musica si chiama come cazzo volesse, magari si chiama con lo stesso nome. Sì, sì, una fedele di compagni che ognuno sapeva come mestiere suo. C'è sta chi che fa cinema, filmate, chi che sa già suonare, ci canta pure ciò per dire, ma sono il canzone rotto, ci facessi una poi si fa venicina. Va bene, allora voglio solo ricordarsi a chiusura di trasmissione che alcuni nomi sono dei compagni di Salerno, tipo Tommaso Enrico, Giorgio, sono dei compagni salernitani, per chi ci sente da fuori Salerno. Allora, io credo che possiamo chiuderla qua, ringraziamo Alfonso perché diciamo lo stimolo a riparlare alla Comune di Parigi è una cosa molto importante. È stata, almeno a parere soggettivo, una bella trasmissione assembleare. Come ho detto all'inizio di questa trasmissione, noi qua come centro sociale proseguiremo sullo studio e approfondimento di alcune tematiche, visto che noi siamo cominciati e stiamo facendo una cosa che fino a qualche mese fa non la potevamo fare, siamo di salire, non siamo virtuali ma siamo fatti di carne e ossa, ci parliamo, dice. Io nel ringraziare i compagni e le compagne, io credo che sia stata una bella trasmissione al di là dei contenuti ci riuscirà. Quello che posso dire è che una data deve essere entro ottobre, una data per vedere se abbiamo questa possibilità, almeno sulla poi mattina. Ci metteremo d'accordo perché sì, e poi arriviamo un mese di gennaio e febbraio, quindi fa marzo non ce va la bene, facciamo va bene, poi questo, allora ok, perché siamo allora saluto i compagni e le compagne che seguono Radio Asilo, ringraziamo Alfonso, ringraziamo a tutti i compagni che seguono, va bene, allora ringraziamo tutti i compagni, è stata una bella storia, ciao a tutti i compagni e i compagni che seguono Radio Asilo, potete seguire la trasmissione pure nel podcast che sarà sia sul sito del centro sociale, sito della radio e via dicendo. Alla prossima.